Ero pronta. Bene, però. Comunque siamo quindi qui con Pasquale Fameli che è il curatore del momento. Diciamoci la verità. Per la puntata 569 abbiamo il curatore del momento. Il curatore del momento, cioè il no, c'era quella, forse c'è ancora, io non seguo il calcio, quello che fa più gol, no, quello che fa più il capocannoniere, il capocannoniere delle mostre, delle perché mostre. Ne è sta vero. Curando una dietro l'altra anche in contemporanea, esatto, che inaugurano nello stesso momento, lo stesso giorno, alla stessa ora, giusto? D'altronde, da contemporaneista non potevo che curare mostre in contemporanea. Infatti, è giusto, no, la coerenza la coerenza fatta persona. Allora, Pasquale viene per Pasqua, cura mostre contemporanee contemporaneamente. Non so cos'altro possiamo aggiungere. Possiamo aggiungere questo. No, no, questo l'abbiamo già sentito. Questo l'abbiamo già aggiunto. No, no, volevo è la ripetizione deferente questa. Ah, questo. Poco differente. Capito. Vabbè, sì, certo. Però non ho capito questi rumori di fondo che non so se è la mia cuffia oppure se sentite anche voi. Se sono i nostri, sentite anche voi. Allontano il mio cellulare che non mi serve fino all'angolo della questo, mi sa esempio. Che è quello della Cinzia. Ah, vedi? Mi dà questa impressione. Vabbè, ma veniamo veniamo al dunque, perché Pasquale adesso ci racconterà nell'ordine, cominciamo dagli spazi istituzionali. Okay. Al Mambo stai curando insieme a Claudio Spadoni una mostra che è parte di un progetto più ampio, però. Sì, esatto. È la mostra dedicata a Mattia Moreni, l'antologica di Bologna 1965. È una mostra, appunto, che ho curato con Claudio Spadoni, che rientra in un più ampio progetto dedicato all'artista, curato, coordinato appunto da Claudio Spadoni, che ha coinvolto cinque diversi musei della regione Emilia-Romagna, partendo già nel settembre dell'anno scorso dall'ex convento San Francesco di Bagnacavallo, dove appunto si è aperta la prima mostra curata da Claudio Spadoni insieme a Davide Caroli, appunto dedicata alla prima fase, diciamo, del percorso di Mattia Moreni, però con delle estensioni che arrivano fino agli anni dell'informale, no? Mattia Moreni chiaramente è uno dei principali esponenti dell'informale italiano, artista che è stato di grandissimo respiro internazionale negli anni 50 e 60, che negli anni 60 decide di ritirarsi in Romagna, ma in realtà continua a dedicarsi, insomma, a dialogare in qualche modo col contesto internazionale, a intercettare anche delle intuizioni, delle tendenze, insomma, di livello internazionale, pur lavorando direttamente alla Romagna e pur declinandole sempre, se vogliamo, proprio in un vernacolo più romagnolo. E quindi questa prima mostra, insomma, ha dato il via al progetto, cui è seguita la mostra, appunto, invece dedicata alle angurie, al ciclo, famoso ciclo delle angurie di Mattia Moreni, che è un ciclo appunto molto particolare che riguarda l'interpretazione di questo tema, di questa forma, diciamo, di questo frutto, anche inteso come metafora della trasformazione, della metamorfosi. E la mostra appunto si è tenuta al Museo di San Domenico di Forlì. Poi è seguita la mostra sugli autoritratti, un ciclo importantissimo degli anni 80, che si è tenuto alla Galleria Vero Stoppioni di Santa Sofia, dove Moreni è di casa, è la sua galleria, esatto, perché lì, insomma, Moreni, la galleria, oltre ad ospitare vari autoritratti degli anni 80, ospita anche La Mistura, che è questa grandissima opera plastica, che è veramente uno dei suoi grandi capolavori. E poi appunto c'è stata la mostra del Mambo, che è ancora visitabile, sarà ancora visitabile fino al 31 maggio nella Project Room, Room del Mambo, dove si vede un po' anche questo discorso dell'anguria viene contestualizzato in risposta alla biennale in cui la pop art la fece da padrone, no? Quindi e questo era, diciamo, consapevolmente o è una lettura posteriore questa? No, allora è una lettura, diciamo, legata all'antologica del 65. Questa mostra, appunto, vuole rievocare, ovviamente in maniera estremamente sintetica, questo importante evento, l'antologica, la prima antologica italiana di Mattia Moreni. È una mostra voluta da Francesco Arcangeli, non soltanto in virtù del rapporto che già Arcangeli aveva con Moreni, ormai all'epoca già 15, diciamo, un rapporto che è iniziato effettivamente nei primissimi anni 50, fine 40, primi 50, appunto, e che prosegue a lungo, consolidandosi sempre di più. Ma questa mostra per Arcangeli rappresentava proprio una risposta non soltanto a quelli che erano era l'indirizzo culturale troppo ideologizzante, insomma, dell'assessorato alla cultura bolognese, che poi era nato da poco nel 59 e che si era interessato a varie forme di figurazione, ma che fossero legate, che erano legate al diciamo al partito comunista, che fossero legate, insomma, erano forme di figurazione alla, sì, quelle classiche, esatto, da diciamo arte, esatto, di arte, ideologia, da socialismo. C'era questo intero. Quindi sì. Moreni rappresentava da un lato per Arcangeli naturalmente la possibilità di contrastare questo indirizzo troppo ideologico della programmazione culturale cittadina. Dall'altro rappresentava invece sul piano appunto degli stili, della storia dell'arte, rappresentava proprio un contrasto con la pop art, perché nel 64 la pop art aveva trionfato alla Biennale di Venezia e mentre esplodevano gli oggetti pop, Arcangeli appunto si accorge che anche Moreni lavora sugli oggetti, però gli oggetti di Moreni sono degli oggetti che hanno una forte caratura esistenziale, mentre gli oggetti della pop art sono oggetti anonimi, stereotipati, omologati, troppo freddi. Ecco, gli oggetti di Moreni conservano ancora, restituiscono visivamente quelle tensioni esistenziali, quelle tensioni anche fisiche che avevano caratterizzato la precedente esperienza informale, che era sì, perché quella. È una pittura molto materica che piace tanto a Pasquini, vero Stefano? Assolutamente, io adoro. Lui ci sguazza dentro a Moreni. Sì. No, fra l'altro, la parete frontale dove ci sono questi tre, ci sto mandando tutti i miei studenti a vederla perché è veramente potentissima. Dopodiché loro mi dicono: ah, ho preferito quello bianco e nero, eccetera. Ecco. Però vabbè, ci sta. E quindi proprio in quel momento, cioè nel testo critico, Arcangeli dice chiaramente: le angurie di Moreni sono gli ideali contraltari degli oggetti di Oldenburg e di Dine. Mm-hmm. Quindi insomma è qualcosa che appartiene certamente all'interpretazione di Arcangeli, ma un'interpretazione estremamente corretta, perché di fatto questi oggetti, come dice lo stesso Arcangeli, giganteggiano, no, sulla tela, sono oggetti effettivamente di enormi dimensioni, come quelli della pop art, ma a differenza di quella pop art sono carichi di questa materia, di queste tensioni gestuali, appunto, che vengono dalla precedente esperienza informale. Il sottofondo musicale sono io, perché questo sottofondo musicale che ha accompagnato il commento di Pasquale, si rilassava mentre lui raccontava, esatto. E io non c'era, infatti dava un po' forma, volevo commentare il materico, no? Con questa materia sonora dovuta al fatto che mi era venuto un po' freschino. Ma che strano, cioè, Chiara è in studio col giubbotto. Vabbè, io sono l'essere più freddoloso del mondo, quindi ci sono pure io, lo posso fare. No, non mi sembra, cioè non vi raccontiamo, ma poi guardate le foto. Cinzia. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Nel caso mi fosse valuto il dubbio, sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. Salutiamo Cesare Pietro Iusti che ci ascolta sempre, soprattutto il secondo Cesare Pietro Iusti, che ci ascolta più spesso del primo, che secondo me non ci ascolta mai il primo. E io avevo una curiosità sulla mostra. Questa cosa dei cartelli invece come nasce? Perché ci sono, diciamo, questo tema ricorrente e sono quelli che a me sono piaciuti di più, proprio per l'uso che fa anche della scrittura rispetto alla pittura, perché, vabbè, non voglio togliere parole al critico, però insomma... Mm-hmm. Beh, no, la serie dei cartelli è quella che precede quella delle angurie, E nasce, c'è una, un racconto, diciamo una descrizione molto interessante di come nasce la serie dei cartelli, una descrizione che fa Renato Barilli in un libro che scrive proprio nel 65 a corredo della mostra, cioè proprio un libro che si intitola non a caso Moreni dipinge oggetti, è un volume edito da Alfa Editoriale in una collana che era curata da Arcangeli, da Emiliani, e viene pubblicato esattamente nel settembre del 65, quindi quando viene inaugurata la mostra. È evidente che qui c'è un allineamento dei critici bolognesi appunto su Moreni. E il testo di Saggio di Barilli è un saggio straordinario perché appunto descrive proprio come plasticamente nasca anche la struttura del cartello a partire da questa gestualità. Moreni utilizzava appunto delle pennellesse, delle spatole, no? Come erano soliti fare gli artisti informali, tracciando appunto dei gesti piuttosto netti, piuttosto definiti, ed è proprio da questa gestualità così decisa, che magari nel caso di Moreni è più decisa che in altri artisti, nasce un po' la struttura del cartello. In mostra c'è proprio Amitié del 60, che è un'opera che è stata esposta nella Biennale di Venezia dello stesso anno. Oh, wow. Ed è l'opera che Barilli appunto prende come che indica come l'opera inaugurale appunto della serie dei cartelli. Amitié, cioè amicizia, e l'opera si intitola A tutti i maldestri del mondo. Ah, che bello! Ecco. E quindi c'è. È per questo che piace a Pasquini, scusate. No, anche perché lui era maldestro, nel senso che era mancino, perché esatto. Sono maldestro. Nella mano destra aveva questa malformazione che non gli permetteva di tenere stretto un pennello, però gli permetteva di stringere la mano. Io ho avuto il piacere di aver stretto il moncherino di Mattia Moreni, che lo faceva naturalmente come provocazione. Certo. I cartelli sono sempre in questa mostra, in questa l'antologica sempre tutto parte, sempre al Mambo nella Project Room. Ce n'è uno che ha un titolo bellissimo che viene anche evocato, che è Il vento nel campo come sempre. Sì. È l'opera opera che appartiene al Mambo, che è stata acquistata proprio nell'ambito dell'antologica curata da Arcangeli, quindi è uno degli acquisti appunto di Arcangeli. Era anche l'opera, il dettaglio ovviamente del cartello era la locandina, che tra l'altro in mostra potete vedere, perché il percorso espositivo si apre proprio con la locandina della mostra del 65 e ha un dettaglio del cartello Del vento nel campo come sempre. Quindi l'opera appartiene al Mambo da quando c'è stata l'antologica. È un'opera di 2 metri per 3, gigantesca, ed è un'opera di cui lo stesso Moreni parla ripetutamente nelle lettere con Francesco Arcangeli. Sì, perché c'è questa in mostra, c'è questa sezione in cui si possono leggere tutte le lettere che Moreni scriveva ad Arcangeli, e sono proprio con la sua grafia. Adesso credo che siano delle copie in realtà, sì, sono delle... però è bellissimo perché vedi proprio questa scrittura piena di cancellature, cioè viene fuori molto la personalità proprio, che poi si ritrova anche nei quadri. Sì, esatto, anche se appunto Claudio Spadoni, che ha conosciuto a lungo Moreni, ha frequentato per tanti anni Moreni, dice leggendo queste lettere viene fuori un Moreni più emotivo, più intimo, che non era quello che ho conosciuto io. Lui naturalmente lo ha conosciuto anni dopo, ma quello appunto era invece ancora un Moreni più tormentato, più emotivo. E Il vento nel campo come sempre è appunto per lui un'opera veramente significativa, quindi evidentemente proprio in questo scambio forse già Arcangeli aveva prestato attenzione, insomma aveva capito che doveva prestare attenzione a quest'opera, e quindi si è si è riservato insomma di farla acquistare al museo. Un'opera di cui Moreni dice mi ha estenuato, no? Dice, realizzarla mi ha stancato, come se avessi fatto l'amore per ore. Esatto, è bellissima quella parte. Sì, proprio, sì. Io vi interrompo un attimo per dirvi che Elso è il nuovo singolo di Tommy Shred, uscito venerdì scorso per Pioggia Rossa Dischi, una canzone nata dall'incontro e dalla scrittura condivisa con Elso, musicista savonese che ha donato il cuore melodico del brano. Ce lo ascoltiamo anche? Naturalmente. E ringraziamo prima Agnese di Bella Press che ce l'ha mandato. Grazie Agnese. Enzo dal caschetto biondo e dagli occhiali ottagonali era andato a lavorare nel deserto del Qatar con un marocchino pazzo, suo coinquilino e alcuni indiani che rischiavano la vita per una birra. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare le sue giornate ai nonni che lo aspettavano a Savona. Siamo gente con la brezza sotto casa, i problemi dietro ai muri e il coniglio in riva al mare. Elso mi ha donato un giro fatto al pianoforte e io ho scritto una canzone che racconta un po' di questo, la storia di un ragazzo come me, sempre in giro alla ricerca di un'idea, di una chimera e chissà poi che cos'è. Stelle sopra il mare, ma le han portate via Milano. E allora per sognare in grande toccherà ad andare là, contrabbandati come Marlboro nel doppio fondo di un motoscafo, risalendo il naviglio grande fra le stelle di lampioni. Elso cerca la sua strada, ma Milano ha più strade che passanti e più passanti che piccioni. Elso mi ha donato un giro fatto al pianoforte e io ho scritto una canzone che racconta un po' di questo, la storia di un ragazzo come me, sempre in giro alla ricerca di un'idea, di una chimera, che chissà poi che cos'è. Essere ripida, una scelta farsi dura, ma all'incrocio prenderai una via che non può che essere la tua. Elso avanza, tira dritto finché è buio, finché si apre una radura. Lì lo aspetta già una donna che è venuta da lontano, più lontano di Milano, più lontano del Qatar, coi capelli come il cielo sopra il mare, come il mare di Savona, come fosse sotto casa. Elso mi ha donato un giro fatto al pianoforte e io ho scritto una canzone che racconta un po' di questo, la storia di un ragazzo come me, sempre in giro alla ricerca di un'idea, di una chimera, che chissà poi che cos'è. Io che faccio le domande quando torniamo in onda. Non è, vai. Non è male per niente sto pezzo. No, non è male. No, bello. È un po' nelle tue sonorità. Un po' nelle mie sonorità. Io stavo sbirciando la corrispondenza di cui parlavamo poco fa. Mm-hmm. Giusto? Un po' troppo vicino. Fai vedere quello di cui parlavi poco fa. Esatto, vedi quante belle cancellature ci sono, ripensamenti. Beh, la corrispondenza racconta tantissimo, cioè la scrittura a mano, quella naturale, e poi la conversazione scritta con qualcuno raccontano tantissimo. Potremmo la prossima volta, anzi ormai no. non lo possiamo più fare, però era da invitare un grafologo. Hai visto? Cos'era quello? Non lo so che cos'era, ma adesso continuiamo a fare dei discorsi seri. Abbiamo interrotto Pasquale. Esatto, abbiamo interrotto Pasquale che comunque ci stava dicendo che appunto tutto questo al mambo, ma parte di un progetto più ampio che non hai affrontato da solo, perché c'è anche la curatela di Claudio Spadoni, giusto? Il progetto è esclusivamente di Claudio Spadoni, che poi ha coinvolto alcuni curatori, curatrici ovviamente per le singole mostre, assolutamente, certo. Quindi la prima mostra appunto coinvolgeva Davide Caroli, la seconda è stata invece quella delle angurie curata da Rocco Ronchi, la terza invece da Denis Isaia, appunto la quarta da me, e poi la quinta, che si è aperta da poco al Mar di Ravenna, riguarda la produzione più tarda, più matura di Moreni, quindi tutta la serie dell'umanoide tutto computer, la serie un po' per così dire post-human, se vogliamo, dove addirittura intercetta anche l'avvento dell'intelligenza artificiale. C'è proprio un dipinto in cui che si intitola, adesso ha un titolo appunto contorto, dice "Scarpa alla moda con intelligenza artificiale in arrivo". Ha capito, che un dipinto del 98, del 98. E questa è appunto invece curata appunto da Serena Simoni, quindi è un progetto molto più ampio, che poi è riassunto in un catalogo edito da Dario Cimorelli, che raccoglie i testi di Claudio Spadoni e appunto degli altri curatori sui singoli aspetti di cui ci si è occupati nelle varie mostre, e poi la selezione di tutte le immagini delle opere, le riproduzioni delle opere esposte in mostra, quindi è veramente un volume prezioso anche per avere una visione molto più ampia del percorso artistico di Moreni. Dove si trova il catalogo, se posso? Scusami, interrompo. È già uscito il catalogo? No, è già uscito. È già stato pubblicato. Si trova, direi, al Bookshop del Mambo, senz'altro. Devo assolutamente andare al Mar di Ravenna, perché questa mi manca. Le ho viste tutte le altre. Non puoi mancare, Stefano, pensavo che non fosse ancora inaugurata. Mi è sfuggita. Mi è sfuggita. E ha aperto, sì, a fine febbraio, in realtà. E sarà fino? E se non vado errato, fino al 3 maggio o al 3 giugno adesso, insomma, comunque abbiamo ancora c'è ancora tempo, ed è una fase veramente, cioè una fase matura, ma una fase incredibile, esplosiva, con delle tinte acee, con dei toni straordinari, toni che sono attualissimi, insomma, assolutamente, veramente un pittore di una forza, di una capacità anche di reinventarsi, di dialogare a distanza con delle tendenze internazionali, insomma, veramente rara. Io ero curiosa di sapere, perché lui ha vinto il primo premio Campigna. È nato con lui il premio Campigna? Allora è nato con lui, magari come premiato, diciamo che lui, ecco, in qualche modo è coinvolto nella nascita. Il premio Campigna nasce appunto da Vero Stoppioni a Quente, intitolata la Galleria d'Arte Contemporanea di Santa Sofia. Appunto, Vero Stoppioni è stato un intellettuale che ha svolto un'importante attività culturale a Santa Sofia e ha dato avvio al premio Campigna, con la particolarità, no, di queste esposizioni all'aperto, che poi si sono nate appunto negli anni 50, ma che poi in realtà hanno confermato una vocazione dell'arte contemporanea, cioè il rapporto con l'ambiente. Di fatto, esposizioni all'aperto. Sì, perché c'è un parco di sculture a Santa Sofia. Sì. Di fatto, diciamo, ancora in quegli anni tutto sommato non era, no, così scontato il rapporto tra l'arte e l'ambiente, no? Lo sconfinamento dell'opera nell'ambiente, però già in qualche modo evidentemente era stato prefigurato, tant'è che Premio Campigna, insomma, continua a essere poi un punto di riferimento anche per tanti, è stato a lungo un punto di riferimento per tante generazioni di artisti italiani che si sono confrontati, si sono misurati anche con questo, con l'ambiente, appunto, con il contesto naturale, e alle volte anche con soluzioni non scontate, insomma. Sì, no, ma è un bel parco, e tra l'altro vedevo che ultimamente stanno facendo delle cose, cioè è in attività. Sì. Ho visto che qualche corsello hanno fatto qualcosa di recente, però non al parco. Anche Loris Cecchini ha fatto un qualcosa, fra l'altro, che ha a che fare con quello che è successo nel foyer del Mambo questo weekend. Era il premio, no, non era un premio, era il progetto di Art in Transition dell'Accademia di Belle Arti, che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ma in tutto ciò Santa Sofia, possiamo ricordare, perché Pasquini ci tiene, ha dato i natali A Fabio Cavallucci, il nostro caro amico, che è stato qua, nonché anche a Paolo Baratta, che è stato per tanti anni presidente della Biennale. Ma infatti, adesso... ma detto questo, sono le 20:29 e 5. Ci tocca fare questa cosa qua. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori. C'è Marco Roma per voi. Quando c'era ancora Marco Roma, stavo per chiedere mai tornato. Non è tornato, mentre invece è tornata Mili Romano con i suoi fantastici sogni. Sentiamola forse, sperando che funzioni, perché prima i sogni di Mili Romano. I sogni di Mili Romano. Ce n'è bisogno dei sogni di Mili Romano. Ecco, infatti non sta andando per niente. Però sono arrivati dei messaggi, dei sogni. Che non è quello che dobbiamo ascoltare. Niente, non ce la posso fare stasera. Stasera i sogni di Mili Romano mi abbandonano. E non riusciamo a recuperarli? Con questo simpaticissimo. Stai attento perché ti racconto uno dei miei. Proviamo questa cosa. Sono arrivati dei sogni. Continua ad andare. Proviamo con questo. Ma hai registrato noi? No, non ce l'abbiamo fatto. No, niente, non ci so niente. Questo è il momento coxico. Mi dispiace Mili, ma stavolta il messaggio non arriva, però possiamo fare, cioè, ovvero non posso sentire il suo, che è il suo primo, però possiamo sentire questo. Trilussa, ninna nanna della guerra. Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto bolazzina. Dormi dormi, cocco bello, se non chiamo farfarello. Farfarello e guglielmone, che se mette a peccorone. Guglielmone e cecco peppe, che sarebbe con le zeppe. Zeppe di un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, piglia sonno, che se dormi non vedrai. Tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo di assassini che ci insanguina la terra, lo sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fai la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo li sovrani, che si scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali li rapporti personali e riuniti in fra di loro senza l'ombra di un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Questo era il messaggio degli studenti del corso di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico dell'Accademia di Belle Arti di Catania, ovvero Alejandra Canchis, Clelia Guastella e Mattia Di Pasqua, mentre invece Mili ci saluta così. Buonasera Stefano e buonasera amici di Coxo Spaziale. Stasera mi piace farvi sapere che il messaggio per voce e flauto mandato da Enzo Mancuso ha alle spalle una piccola storia che Enzo mi ha raccontato. Dietro questo minuto di musica c'è una storia di amicizia. Il flauto a becco verticale che ho utilizzato mi era stato portato anni fa dall'Afghanistan da un amico caro che era lì militare in missione. A Herat, città dei poeti, accanto alla base dove prestava servizio c'era un mercato. Mentre gli altri militari compravano scarpe o magliette, lui, militare anomalo, laureato al DAMS e un po' artista, andava alla ricerca di strumenti musicali. Uno strumento, dunque, il flauto che ho usato, che viene da una terra di sofferenza. Ogni strumento musicale ha in sé un mondo che è assopito. Chi lo suona non fa che risvegliarlo. Così, in questo piccolo brano per flauto e voce, ci sta dietro una storia di amicizia, di risveglio di suoni altri e lo spirito di una terra da decenni martoriata e che non trova pace. Ringrazio Enzo e concludo il mio messaggio di oggi, rinnovando l'invito a partecipare al nostro progetto, e saluto tutti augurandovi buona Pasqua. Grazie mille, grazie a chi ha mandato questi bellissimi contributi. Posso dire che è veramente bello quello degli studenti di Catania. Sì, bravi. Molto molto naturalmente bello. Il progetto è Protected Area, che è questo progetto di cui non abbiamo sentito il primo episodio oggi, ma l'abbiamo sentito nelle puntate precedenti. Se volete contribuire avete ancora tempo, lo potete fare al 333 180 94 94 scrivendo che è per Mili Romano, oppure mandandolo per email a coxospaziale@gmail.com. Mi sa che qualcosa ci dice che l'angolo della menzione. Qualcosa vi dice che l'angolo della menzione. Chi comincia? Martedì 31 marzo alle ore 11 l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita una lezione aperta a cura della Scuola di Scenografia intitolata La vita delle cose. Il progetto didattico della Scuola di Scenografia L'anima nascosta delle cose si impernia sull'analisi e significato degli oggetti e la loro potenza evocativa sia nella vita reale che nella rappresentazione cinematografica e teatrale. Aula Magna, Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54 a Bologna. Martedì 31 alle ore 15.30 per Biografie in Arte, ciclo di incontri a cura di Lelio Aiello. Questa settimana è ospite dell'Aula Magna Luigi Presicce, artista che lavora attraverso pittura, scultura, performance e scrittura, costruendo un immaginario che intreccia mito, religione e culture popolari. Sempre all'Aula Magna, l'Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti 54 a Bologna. Mercoledì 1 aprile alle 18.30 invece a Palazzo Bentivoglio lascio la parola a Pasquale perché non ho la più pallida idea di cosa succede, ma ce lo dice lui. Volentieri. Presenteremo il libro Materia Organica, che è una raccolta di saggi che ho avuto il piacere di curare con Maria Bergamo e Fabrizio Lollini, che sono appunto colleghi studiosi di storia dell'arte medievale, Maria Bergamo allo UAV di Venezia, Fabrizio Lollini invece qui all'Università di Bologna, ed è una raccolta appunto di saggi che nasce da un convegno che abbiamo organizzato ormai più di due anni fa sui fluidi corporei nell'arte tra medioevo e contemporaneo. Abbiamo esplorato insomma le possibilità creative dei fluidi corporei, non soltanto analizzando casi molti spesso insomma noti, più volte citati dell'arte contemporanea, ma anche andando a riscoprire i significati dei fluidi corporei anche nell'arte medievale. Ci puoi fare un esempio, anche se dilungo un attimo questo angolino della menzione, ma secondo me incuriosisce. Certo. Ci puoi fare un esempio? Puoi spoilerare uno di questi? Per esempio adesso per quanto riguarda, non so, parto dal mio saggio. Il mio saggio era dedicato a alcuni cicli di pittorici, per così dire, realizzati da Warhol alla fine degli anni 60, i cosiddetti peace painting, camp paintings, che erano dei cicli realizzati con l'urina e con lo sperma. Io speravo quindi che citassi qualcosa del medioevo, perché certo, no, questi no, magari sono più partito noti, ovviamente da quelli su cui sono più preparato, poi per il resto sul medioevo, per esempio anche le varie rappresentazioni dell'uroscopia, no? Come appunto cioè la lettura delle urine, no? Ma per pazzesco. Determinare sì, ecco, è uno tra i tanti casi possibili, insomma. Però ecco, diciamo che chiaramente per quanto riguarda l'arte medievale si parla soprattutto di rappresentazioni della materia organica all'interno delle immagini. Ovviamente ci sono i famosissimi casi di Taquina Sanitatis, quindi di questi volumi che erano proprio dei prontuari medici, per così dire, insomma, certo. Che davano delle soluzioni a vari problemi, insomma, di tipo appunto problemi corporali, problemi fisici, eccetera. E quindi sul Medioevo naturalmente gli studi hanno riguardato soprattutto non tanto l'impiego diretto della materia quanto la sua rappresentazione. Infatti il sottotitolo del volume è Usi e rappresentazioni dei fluidi corporei nell'arte, quindi tra Medioevo e contemporaneo. Invece per quanto riguarda l'arte contemporanea si parla di un impiego diretto in molti casi. È stato il caso di Warhol che menzionavo prima. Corrado Levi l'avete menzionato, che ha realizzato in tempi abbastanza recenti, io vidi una sua mostra realizzata con sperma, credo, se non ricordo male. No, non mi pare che ci sia proprio questo caso. Volevo giusto far finire questa menzione. Questa menzione che stiamo andando. Visto che è ora di cena. Questo era un plus, giusto? Non era compresa Era un plus. E ripartiamo. Palazzo Bentivoglio alle 18:30. Dopodiché abbiamo una settimana in cui non succede niente perché è Pasqua. Per cui se volete vedere dell'arte andatevela a vedere in chiesa. E poi... E poi c'è il mercoledì 8 aprile, che forse toccava a me, anche se mi ero interrotta nella parentesi, alle ore 17, la sala delle conferenze del Mambo, Museo Morandi, sala delle conferenze Mambo, Museo Morandi ospita la presentazione della nuova raccolta di poesie di Giampaolo Roffi, Resilienze. Cioè, quindi Museo Morandi è a cura di, presumo, perché la cosa è al Mambo. Sala conferenze del Mambo Museo Morandi, perché il Mambo è anche il Museo Morandi. Io ho fatto copia e incolla. Però normalmente non lo diciamo. Vabbè, mi sono un attimo impappinata in questa cosa. Comunque è al interessante Mambo, non vivere al... questo. Esatto. È il bello della diretta. Il discorso Morandi critico di chi è da comunque, chi è. Vabbè. No, se non lo sappiamo noi, non so chi altri lo dovrebbe sapere. Vabbè. Adesso qua comunque il discorso critico è tenuto, indovinate da chi? Da chi? Da Pasquale Famelli, docente di fenomenologia dell'arte contemporanea presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e autore della monografia Giampaolo Roffi, La quadratura del cerchio, 2016. È una monografia appunto ormai datata, però insomma il rapporto con Giampaolo Roffi, che viene dal mondo della poesia visiva, un rapporto che per me è iniziato proprio in realtà lavorando alla mia tesi di laurea magistrale, e da quel momento è continuato ovviamente con varie collaborazioni. Io, per conoscere Giampaolo, che abitava a Bologna, sono dovuto passare da Torino, perché andai a Torino a trovare uno dei grandi protagonisti storici della poesia visiva, sonora, performativa italiana e internazionale, che era Rigolo Ratotino, che mi diede molto materiale per la mia tesi, ovviamente molti scambi, confronti. Mi disse: ma tu stai a Bologna, perché non sei andato? Non vai da Giampaolo Roffi? Perché vieni da me e non da Roffi, esatto, che è più comodo per te. E quindi lui mi mise in contatto con Roffi, io l'andai a trovare, da lì nacquero delle collaborazioni, nacque un'amicizia, abbiamo fatto tante cose insieme. Lui, oltre che autore in proprio, io mi sono occupato appunto del suo lavoro attraverso la realizzazione di questa monografia e varie altre mostre e attività, ho poi curato delle mostre sulla sua collezione di poesia visiva, perché molti di questi poeti visivi sono anche dei collezionisti di poesia visiva. Infatti gli eredi di Rigolo Ratotino hanno donato una quantità enorme di libri d'artista, di libri di poesia visiva all'Accademia Albertina di Torino, e io ho avuto il piacere di sfogliarli in qualità di prof di editoria d'arte, che appunto se non li sfoglio io, chi se li sfoglia? Corsia preferenziale, esatto. Giustamente. No, vabbè, erano lì. E quindi dicevamo, ah no, non abbiamo fatto il recap che sarebbe sala conferenze Mambo, ed era giovedì 9 aprile alle ore 18. No, mercoledì 8 aprile. Ah, cavoli, l'8 aprile alle 17. Ma io ti direi che giovedì 9 aprile alle 18:30, sempre nella sala conferenze Mambo, per quello che mi sono distratto, scusate. Che... Sempre la sala conferenze Mambo Museo Morandi ospita la presentazione del libro La dimensione delle cose di Alessandra Spranzi. Mm-hmm. Va in Industria 2026. Via Industrie, benissimo, perfetto. In dialogo con l'autrice Simone Menegoi, mm-hmm, autore di un testo del volume, e Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, sala conferenze Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Invece venerdì 10 aprile alle ore 10:30, per il ciclo di conferenze Segni di scuola sulla storia, tecnica e conservazione del disegno e della grafica d'arte, a cura di Chiara Guerfi e Aghin Sacco, venerdì appunto si terrà Luciano De Vita, dal periodo accademico all'informale e ritorno. Il relatore è Marco Fiori, amatore collezionista di grafica d'arte, presidente di AALI, Associazione Liberi Incisori. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti, nell'aula G1 in via del Guasto 7 a Bologna. E venerdì 10 aprile alle ore 17, inaugurazione della mostra Il 48 di Faustino Joly, dipingere il risorgimento tra Bologna e Brescia, a cura di Isabella Stancari e Otello San Giorgi. Faustino Joly, 1814-1876, apprezzato pittore bresciano di animali e paesaggi, è ricordato anche per la sua produzione di dipinti dedicati al risorgimento italiano, al Museo Civico del Risorgimento in piazza Carducci 5 a Bologna. E poi venerdì 10 aprile, dalle 18 alle 21, per i nostri ascoltatori di Milano, inaugura Man Ray, M for Dictionary, un'ampia retrospettiva dedicata a Man Ray, che pone il pensiero linguistico dell'artista come principio guida e ne esplora i diversi mezzi espressivi. La mostra, presentata in occasione del 50° anniversario della scomparsa dell'artista, è realizzata in collaborazione con il curatore e storico dell'arte Yuval Edgar e Deborah D'Ippolito. Tutto questo al Gio Marconi in via Tadino 15 a Milano. Prima dice l'ultima, io? Beh, la dici tu. La dico io. Invece lunedì 13 aprile, che come avrete notato è abbastanza lontano, ma perché Coxo Spaziale ci sarà la replica, per cui se oggi salta la Pasqua, che voi ascoltate, se oggi è il, dunque oggi è il 30, il famoso lunedì di Pasquetta, se oggi è il lunedì di Pasquetta, sappiate che questa è una replica ed eravamo qua il lunedì precedente. Dicevamo, lunedì 13 aprile alle ore 19, nell'ambito di Boom, crescere nei libri, dal 10 al 24 aprile, nello spazio espositivo di adiacenze, prenderà vita l'albo illustrato I Will Eat You in the End di Marianna Coppo e David Duff. La mostra inaugura il 13 aprile alle 19 con lettura dal vivo e firmacopie degli autori presentati da Debbie Bibo e Chris Houghton. Tutto questo ad adiacenze in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. E basta. E ma il primo resta... aprile non c'era qualcosa che dicevamo prima fuori onda? Mm-hmm. Mercoledì. Sì, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Quello che non abbiamo detto invece è quello che è già in corso, già inaugurato, che è inaugurato sabato scorso. Sabato scorso, se state ascoltando per la prima volta, e due sabati prima, se state ascoltando per Pasquetta. Che però c'è ancora. Esatto, anche che però ci sarà ancora. In via dell'Oro, studio La Linea Verticale. Certo. Testa o testa. A cura di Pasquale Fameli. Certo, raccontaci questa collettiva, sì, che mi diceva Maurizio Osti che solo lui e Bottarelli sono i sopravvissuti di questa mostra, nel senso che sono autori di una certa età, ma alcuni di loro, ahimè, non sono più con noi, tra cui il mitico Concetto Pozzati. Esatto, sì, Testa a Testa appunto è una collettiva che vuole raccontare, insomma, diciamo, uno spaccato della pittura bolognese di secondo Novecento, in particolare in quel passaggio che va dall'informale a nuovi esiti figurativi, ragionando appunto attorno al tema della testa, che è un tema che effettivamente è stato molto un soggetto, insomma un motivo molto frequentato dagli artisti dell'informale che guardavano a Fautrier, a Dubuffet, ovviamente perché era una sorta di pretesto plastico ideale, no? Per creare queste immagini nucleari, esplosive, che potevano disfarsi, aprirsi e poi magari condensarsi nuovamente, che è quello che è quello per esempio che hanno fatto artisti un po' più giovani degli informali alla Bendini, che per esempio appunto lo stesso Pozzati oppure Pirro Cuniberti, che erano partiti dall'informale però attraverso il tema della testa. In opera, in mostra ci sono due loro opere molto belle, e attraverso il tema della testa hanno gradualmente rassodato il materialismo dell'informale e sono ritornati alla figurazione per confrontarsi insomma con quelli che erano i nuovi immaginari stereotipati dei mass media, della pop art, però mantenendo anche loro, come nel caso di Moreni, quel senso di conflitto, di tensione che aveva caratterizzato insomma le loro origini informali. All'interno di questa mostra quindi appunto ci sono opere di Bendini, Pozzati, Cuniberti, c'è Alberto Colliva che è uno degli artisti del trio del Battibecco insieme a Maurizio Bottarelli e Franco Filippi, entrambi presenti ovviamente all'interno della mostra, quindi gli arrabbiati del Battibecco come li avevano soprannominati nel 62, questi tre artisti arrabbiati come gli irascibili di New York, no? Come gli arrabbiati di New York. Che però appunto a Bologna stavano cercando di superare l'informale attraverso questa figurazione però slabbrata, questa figurazione appunto distorta che ancora risentiva, no, dell'impeto informale, anche loro in vari modi lavorando sul tema della testa, non soltanto, ma insomma lavorando anche sul tema della testa. E ci sono ovviamente artisti poi che hanno, c'è cioè un artista come Bruno Pulga per esempio, che è un artista che ha lavorato sistematicamente a differenza degli altri sul tema della testa, interpretandola davvero in tutti i modi, anche fino ad arrivare agli anni 70, insomma non ha mai perso questo rapporto insomma con questa immagine. E ci sono, c'è Lidia Puglioli per esempio, che spesso ricordiamo più per i paesaggi, ovviamente per i paesaggi informali, ma qui abbiamo presentato in questa mostra una singolare testa con delle risonanze ancora un po' neocubiste. E poi ci sono appunto Maurizio Osti che hai già citato, Piero Manai anche, questa è una mostra che è nata in collaborazione con vari artisti, archivi di artisti come l'archivio Pozzati, l'archivio Cuniberti, con la P420 che appunto ha prestato l'opera di Manai, quindi è stata un po' l'occasione anche per creare una piccola rete insomma. Ci sono anche opere di Fontanesi, di Alcide Fontanesi, c'è un bellissimo Bucranio. Un Bucranio, esatto, un Bucranio, una bellissima opera scultorea. E c'è Giuseppe Ferrari anche, che è stato un altro degli esponenti storici dell'informale bolognese, quindi anche qui una mostra misurata. Mm-hmm. Abbiamo provato a farla con la testa, diciamo così, e abbiamo scelto appunto delle opere non scontate, insomma, certo. Anche per cercare di... No, infatti sono convinto che mi piacerà tantissimo questa mostra, purtroppo non l'ho ancora vista, ma... Nessuno di noi l'ha ancora vista, ma vengo a vederla fino a quando abbiamo l'opportunità. La mostra è visibile fino al 23 aprile. Ce la possiamo fare. Infatti complimenti per la memoria, perché veramente a mente ti ricordi tutte queste cose e tutte queste date. Queste date e queste tutti cose questi che inizi hai fatto, e fine di date della tua fitta agenda. ma perché Pasquale è giovane e dunque il suo hard disk non è ancora pieno, secondo me. Può essere. Comunque veramente dovresti venire a fare un programma d'arte contemporanea direttamente tu. Perché non ha abbastanza da fare. Sì, no, esatto. Vabbè, tra una mostra e l'altra anche il programma di arte. Ma tanto il lunedì non hai altri, no? La faccia prima potrebbe venire. Ci siamo ricordati di citare tutto perché siamo la puntata volge al termine. Io avevo una domanda, ma non so se questo toglie tempo alla mostra dell'Ariete. C'è qualcosa che... La mostra dell'Ariete, ecco, volevo segnalare anche la mostra dell'Ariete, appunto, che è una personale di Simone Ponzi. Che in qualche modo è un artista di fidenza, ma pensavo diffidente. No. No. L'artista. Non saltare con sono io affrettate Pasquini, no, diceva che il livello era un po' troppo alto in questo momento. Era disagio. Questa puntata è stata quasi tutta sì, di Aldi, vero, ma adesso a parte le mie menzioni in cui ho fatto casino. Ma no, sono 57, non è vero. Giuro, sono no, ma infatti il tempo scorre e come vedete Panta 80 ci sta già guardando salve malissimo. Aiuto. Abbiamo niente. Abbiamo un minuto per parlare. Beh, l'hai interrotto perché stava dicendo qualcosa, secondo me. Hai un minuto. Ridiamogli la parola. Sì, esatto. Rapidissimamente, allora sì, la mostra di Simone Ponzi, appunto artista di Fidenza, ma allievo di Maurizio Bottarelli, infatti è l'artista insomma che ha sviluppato un po' il tema del paesaggio per come l'ha interpretato Maurizio Bottarelli, non soltanto nella sua ricerca artistica, ma anche evidentemente a livello didattico. E sono queste terre appunto frammentarie, queste terre fragili in qualche modo, che su cui Simone lavora da tantissimo tempo. Siamo ai primi momenti insomma della nostra collaborazione, perché ho avuto piacere di presentarlo al Centro San Fedele di Milano alcuni mesi fa, e adesso appunto nell'ambito della personale che è tuttora in corso all'Ariete a Bologna, quindi. Bene, direi che ottimo. Il tempo è non c'è il tempo per la mia decisamente domanda. Scaduto no, assolutamente rimarrete stanno, tutti con una grande curiosità malissimo. E io ero Cinzia Corda, io ero Chiara Pergola e io ero Stefano Dabbio Pasquini, e questo era Coxo Spaziale. Ringraziamo tantissimo Pasquale di aver trovato il tempo tra tutti questi eventi di venire anche da noi. Ma con piacere ci salutiamo con le parole del nostro direttore, che ci saluta così con questo basso livello di radiofonia. Ascoltiamo la sigla. People walking around the neighborhood, counting their steps, as the whole world holds collective breath. For the tickets on the windshield, the boot on the wheel, the fuel light flashing in this automobile.